Ehi, peggio per te. Fra un po' devo uscire. Sempre zonto, tanto piove. Lascialo piovere, già non mi tocca a me, sono in macchina. E allora, se sei in macchina ti rubo il posteggio, così ti impari. Ah, quello non me lo dovevi fare. Anzi, sai cosa faccio? Ti faccio portare una di quelle piante grandi, come si chiamano quando mi viene, di quei vasi enormi con la gru, te lo faccio piazzare lì in mezzo ai piedi e non posteggi più, capito? Così ti impari. E stanotte ti telefono alle 2 di notte, così impari e non dormi. E io spengo il telefono, così ti impari. Beh, Gianfra, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavo modificando un circuito che avevo fatto, però funzionava maluccio. Quando ho fatto un secondo funzionava bene e quindi adesso lo sto correggendo, così ne ho due. Non ho capito come ne faccio. Sono cose che capitano. Caro Natalinus, allora, stamattina presto c'era una propalazione micidiale, cioè a squelci girato tutto proprio riuscivano a passare. Ehi, già l'ho sentita la propagazione. Io adesso devo andare a accompagnare la 50 a fare una commissione e mi tocca uscire per forza. Ehi, vabbè, tuo dovere è Natali. Io mi devo decidere invece a riuscire perché sono intanato da troppo tempo. Stavo iniziando già a fare qualche chilometro. E poi io di nuovo sospeso. Che rottura. E vabbè, è così. Pensi di essere più libero e essere più prigioniero. A stare rintanati non va bene, no. Gianfra. Non va bene, no. Non va bene, no. Perché ti esce, anzi, è già uscita la pancetta, poi ci sono anche prosciutti, quindi è un guaio. Manco più in bicicletta stai andando. Non ci riesco, non ci riesco. Ovviamente tante cose, tanti casotti anche. E oggi risolvi quello, domani devi risolvere l'altro. Poi si accumula, diventano tante cose, è un casotto, capite? Ma oggi ti saluto, Antonio, ti saluto, che devo andare a scuola oggi. Così. Ma tu sei sempre in ascolto là? Ehi, qualcosina sto ascoltando. Già ti ho sentito battibeccare con quello, con due W. Aspetta, non so se sia il mio squadro troppo alto. Mi sei, ti sei interrotto qualche... troppo, forse di tanto... Aspetta, ho tirato un po' sullo scotch perché era quasi al massimo. Prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Adesso sei uscito tutto sincaro. Ti stavo dicendo, se ce l'avessi l'attrezzo per ascoltare, perché non, figurati che non riesco neanche a fare una prova là. Sì, per ascoltare già ce l'avevo di là in soffitta, già ascolto. Ti ho sentito con quello che c'ha 2 W. Sì, non ricordo chi fosse, vabbè, guarda, se parlo adesso mi senti, aspetta. Già ti ho sentito, 1, 2, 3. Ottimo, ottimo, ottimo, così mi piace Natale organizzato. Allora, non, questo è acceso, vabbè, speriamo che non mi vada fuoco la casa. Devo fare una cosa, devo provare un apparecchio, che ho cambiato le configurazioni, tanto che lo devo smontare. Dunque, come funzionava la taglia? La morte corruttiva? Sì, se non lo sai tu, io non so manco di quale apparecchio si tratti. Non sono in casa mia, io Lino. Beh, come se fu proprio vedere, sì. Perché mi fai una trasmissione? Vabbè, per sicurezza male sacco. Ho una scena. Asco, cosa mi stai prendendo in giro? Prova. Andare in trasmissione da solo, te lo immagini che prepotente. E tu l'hai lasciato senza guinzaglio, e per forza lui va da solo. La mia pazienza ci vuole. Che cose strane. Poi sempre rispettose, non ti illudere che sia solo a 27, a rompere le scatole con il microfono, appena farò fare qualcosa un pochettino più su. Ti escono i casotti, capito miei? Io, ecco, arrivato qua, lo lascio qua un attimino, così siamo un po' tempo e vediamo cosa succede. E adesso farò una chiamata, aspetta, mamma, un attimino. Eccoci qua. Allora Natali, ti farò una chiamata di là, generica, farò un cicco. E tu mi devi dare un controllo, non di segnale, il segnale non ce ne fa niente su quella frequenza, e come chiarezza di quello che dico. Ecco, la puoi confrontare anche con la voce che senti qua, cioè dal punto di vista della comprensibilità, che deve essere totale, poi il tono, la tonalità, eccetera, lasciamola agli altri queste cose. A me interessa proprio la comprensibilità. Se dico ciao, tu devi capire ciao, non ciao, capito? Sì signore. Allora vado, è probabile che senti anche dei toni, ma quelli sono i comandi che si usano in insomma, ecco. Bellissima, anche molto alta la modulazione, è comprensibilità totale. È fedele? A voglia. Ah, finalmente abbiamo centrato, come si dice, come c'è a San Leolio, il pisello nel bacello. Perfetto, finalmente. Che differenza c'è tra qua e là? Che là è più alta, solo il volume, perché la comprensibilità è totale, si capisce tutto quello che dici. Hai detto itera, test. Perfetto. E di là, diciamo, ho capito l'inizio, ha detto, di là è più che cosa rispetto a qua? È più amplificato, il volume è più forte, c'è. Diciamo, va, ma non è un difetto se rimane intatta la comprensibilità. Ottimo. Anche i toni si sentono, perché io ovviamente non li sento. Break. Avanti il break. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Gamma, ogni casino sa male che intengo. Tengo deve essere che sta prendendo la propagazione di brutto. Buongiorno anche a te. Non mi viene adesso. Sì, stamane c'è una parecchia, anche a scuola ci ho messo al massimo, riusciamo a passare, una cosa da paura, adesso è un po' calata, meno male. Antonio, vero? Perché ti sento con rumore di motocoltivatore dietro. No, è il ventilatore acceso, se no qua non si può stare. Gappa, ma sediale è buono dalle parti tue. Sì, sì, sì, tanto. Va bene, anche la radio. Va bene. L'ho vista con l'antenna, lo sai. Ogni tanto me la guardo perché passo spesso lì. E l'ho vista che è un po' bassina, ma considerando l'altezza qui è, devo dire che arrivi veramente, veramente forse. Neanche io me l'aspettavo che mentre sia zona quasi alta e non quanto carbonata, però arrivi molto forte. Beh, ce l'ha fatta su, ce l'ha fatta su a Carmonazzi, guai. Ce l'è arrivato fortissimo, non forte, no. Capa, io non ne ho idea che segnale ho a casa tua, però qua mi sentono tutti. Però già funziona anche la ringola. Sì, vabbè. Qua i segnali, a dare segnali sarebbero inesatti, perché a parte che è avaro l'affare, che poi sono quelli a LED e non si capisce niente, capito? Quindi dare un controllo, ti posso dire come 9 può essere anche 9,20, lasciamo il tempo che trova. L'importante è la radio che si senta bene, poi il segnale può essere anche S0. Riprenditela Natalia. Eia, tra un po' dovrò uscire, ma già me lo metto in macchina. Ma dunque, perché io spero sempre che poi passi in alto. Te lo metti in macchina? Sì che me lo metto. speriamo, perché come vedi, tra un impegno e l'altro, guarda, sta diventando una cosa un pochettino difficile, guarda. Poi ci sono tanti problemi, oramai non trovi una persona che non abbia problemi, quindi la radio passa in secondo, terzo piano, non sente più nessuno. Troppo casotto, guarda, troppo. Speriamo che si migliori la situazione, così siamo tutti più tranquilli. Avanti, Antonio. All'interno il gazzino. Che ci sono anche i lupi, perché? No, ho detto casino, un bel. Quello sì. Po. Riprendi Natale. E K, anche qua Antonio, anche se in zona bassa a confronto a Carbonazzi, ma tu ti è sparito l'importante? Mi si è spento l'apparecchio. Addirittura? No, anche in curva. C'è questo fusibile che è difettoso. Può succedere. Ma non ci riesci a ripararlo una volta per tutte, Natale. Sempre il pulsante. E adesso ne approfitto che sto uscendo e me lo compro uno come si deve, da. Ah, non è comprare qua che ti spendano, ammesso che ce li abbiamo pure, cosa ti danno? La capi, riparalo tanto un commutatore, tanto qua commutatore neanche ne hanno. Microfoni te lo vendono a prezzo d'oro, quindi è meglio che te lo ripari bene tu, al limite ci cambi il pulsante. No, è il portafusibili che non è più 4, va bene comprato, barato, no, adesso fanno pagare, ma io metto anche su internet già. Mi si è spento così poco fa. Pagamme. Vi siete sovrappopolati, non so chi fosse. No, non ho capito, ma è il fusibile o il microfono? No, il portafusibili non serve a nulla, quello che ho comprato da Fusaro. Adesso già lo so io quali sono quelli buoni. Ascolta, te l'avevo già detto e te lo ripeto. Predanietta, c'è il negozio dei cinesi che c'ha tutto, c'ha anche tutti i fusibili, anche quelli buoni, ed è un settore auto dove c'hanno, cazzo, i volanti, le lampadine per l'auto, quelle cose lì. Il negozio è quello che c'è oltre Cesaraccio, andando da Bricco, non mi viene il nome. Dopo c'è quello che vende la roba usata, mi ce l'hai presente? Portobello. Eia. Sì, bravo, Portobello. Bravo. Dopo vado e me lo compro. Se li trovo buoni me ne compro più di uno. Infatti, costa una fesseria. Tu guarda, ci sono quelli a incastro, se non ricordo male. E quelli a chiusura che si danno nella radio anche. Guarda se c'è il fusibile, se no lo sfisci. Perché se quello balla, si rompe le scatole, poi se scintilla, eccetera, poi ti guasta anche la radio. E infatti. Nominati, come si chiama, Fontumati e Usciti. Tanto sei entrato tu e sono entrati anche questi propazioni, adesso stiamo intanto. Già lo so, già, magari ci sentono a noi. Può darsi, io sto andando con 2 watt, 1.5 watt. Però quando c'è propazione, c'è propazione. Anto, come siamo messi? Queste bombole rimangono così a questo prezzo, le devono aumentare. Quanto sei pagando tu? Adesso mi metti in crisi, l'ultima che ho preso è quella da 15, 30, 35 se non ricordo male, o 37, boh. L'ultima volta mi hai detto 37. Sì, 37 allora, non mi ricordavo. Noi siamo a 36. Ho capito. Solo che poi alla fine sono 38, perché venire da te sono andate al ritorno, sono 16 chilometri, anzi non qualche cosetta in più, perché io ricalcolo fino alla casa Macici, e lì sono esattamente 8 più 8, 16, da te quanti saranno? Altri 2 chilometri, quindi sono arriva a 20. Ma Rosa, per arrivare qua ci scende la 131 e ci dà, non lo so dove sei tu e sei già arrivato qua a me. Anto sono misurati, ho contato chilometri. La strada è scorrevolissima, ci arrivo subito, però è lontana, perché sono in periferia, sono sulla strada che va a Cosoli, guarda, il punto più vicino come indicazione alla stazione Molafa. Aspetta che entrano un cliente, ma bianco alto. Sì, ok. Allora, sta lì, sta alzando, sta salendo la temperatura. Vediamo un po' se... Lo vediamo l'anno messo, se il mio pannello sta lavorando, perché sto andando a energia solare. Ecco, il pannello stai andando. Sì, da qualche mese sto andando sia per la luce, diciamo, di illuminazione, perlomeno della stazione radio che è tutta LED, e sia degli apparati, sto andando a energia solare, perché a parte che così mi evito di sbalzi di tensione, poi io sono un circuito separato. Siamo più tranquilli, capito? E non consumo niente. C'è la batteria da 160 Ah, ampere ora. Guarda, adesso mi sta dando, dato che ho le radio accese, mi sta caricando la batteria e sta per i servizi mi sta dando 3 ampere, che è l'assorbimento della trasmissione. Il pannello è da 200 watt, quindi sta lavorando. È bello, è una cosa bella. Certo, non ci collegare il lineare, cioè il lineare devo far funzionare, però la batteria, anche se ha da, cioè la batteria da 100 ampere, no, non so cosa dire, è da 100 ampere, è di quelle, quelle moderne, no, adatte, adatte per i pannelli solari AGV. Quindi fa tante cariche, può fare scariche, ma guarda, in una giornata di uso scende pochissimo, infatti la carica velocemente anche. E poi più sole c'è, più carica. Basta la luce, già adesso no, il sole è dall'altra parte, perché il sole è qua dove c'è il pannello, arriva tra un'oretta all'incirca, no, poi anche un cielo strano, non è che, come si dice, un po' scuro. Ieri sera sul tale si metteva anche il ponare, quindi c'è talmente caldo, le temperature sono talmente calde che si arriva poco a poco un'ondata di colpo di freddo, anche la tromba d'aria c'è. E già me l'ha detto che avevi il portoncino che non lo potevi toccare, che stava bruciando. Sì, è una cosa, guarda, una cosa pazzesca. Tu figurati che già da quando è iniziata la stativitera ha iniziato anche a bloccarsi, no, la serratura, cioè la serratura a croce, che passano all'interno i passanti, no? Quindi si conficcano per terra, poi sui lati e così via. Se ne avrà fatto in tutte 8 sbarre. 4 sbarre le ho dovute togliere, anzi non ho, no, 4, non so, 4 sbarre sono ricordate, comunque quelle superiori e inferiori le ho dovute togliere perché non faceva più, non mi apriva più la porta, quindi ho dovuto alleggerire, perché quando c'era caldo si dilatta, lo stesso il cancello, anche il cancello elettrico me le imballa, perché il ferro è talmente caldo che il binario che c'è sotto si deforma. È una cosa micidiale, è una scocciatura che non ti dico. Il caldo, la temperatura alta lo fa dilattare, ma la sorte te lo blocca, sì. Eccomi. Allora, quanto ne ha smaltito? 10, Antu? No, sono alla seconda ancora. Ma vanno di più quella da 10 o quella da 15? In questi ultimi tempi le piccole, perché ne ho fatto questi cuzzini in miniatura ed è un casino metterci le bombole. E comunque c'ho l'impressione che il gas in bombola sia molto, molto più efficiente di quel gas lì che passa al comune, così è. Ma che dai, è riabbroponata, chissà. Infatti, non c'ha un grande potere calorifero, questo qua invece scalda subito. E io adesso ne sto consumando molto poco perché lo usiamo solo per cucinare. E con questo caldo, no? Ti metti a cucinare roba al forno, quelle cose lì. E per l'acqua calda, che anche quella, anzi, poi quasi quasi me la diminuisco anche la temperatura, tanto se non è troppo calda. C'ho la caldaietta, ho fatto il circuitino e adesso va tranquilla. E lo profano, se te la tendi per la caldaia, sì. Ah, le bombole normali. Bombole normali, da 15. C'ho il diffusore doppio, no? Quindi qua appena si scarica una, accendi l'altra, giri il rubinetto e apri le altre. E quindi c'è sempre la riserva pronta in caso di mancanza di esaurimento di una delle due bombe. Lo so, però per la caldaia ci vorrebbe il profano. Vabbè, costerà di più, presumo, così è. No, lo diamo allo stesso prezzo noi. Perché la caldaia si può bloccare, il rompimento di cuglioni, ma molti ce l'hanno già il propano in bombole, molte aziende. Noi invece ce l'abbiamo a parte, ce l'abbiamo. Noi di solito per le caldaie consigliamo il propano proprio per non avere problemi. Lo puoi usare per tutto, per cucina, per tutto. Però per la caldaia è più indicato quello perché adesso ha più potenza. E poi rende di più, rende. Capito? E noi ho fatto una parrucchiera qua su via Carlo Felice. Dice, ma come mai quando prendo la vostra bombola? Ho visto che quel coso c'è il manometro, che sale di più, è logico, se ti do le bombole di propano, è logico che sale di più, ha più forza, ha più potenza. Gli ho detto che ne stanno imbuttito tane gli altri. Erano bombole che non rendevano quanto rendono le nostre. La volta non l'ha più chiamato, lo chiama sempre a noi. Se non so dove quello in via Carlo Felice Expo, dove c'è la pasticceria Sonia lì. No, ho capito. No, io utilizzo questa da sempre, anche lo sapevo, era meglio mettere il propano, ce l'ho tanti anni, ma anche quella che c'era prima, la caldaia, che poi si è invecchiata, è morta di morte naturale, sfuttile, no? Questa c'ha già 5 anni e quindi non ha mai dato seccature, a parte cambiarla le batterie. Ma poi per l'altro devo dire, anzi scalda anche troppo, tiro. E infatti adesso va per risparmiare anche il gas, là. Vedo un altro colpetto per diminuirla, però va molto bene. Io sono molto soddisfatto, ho pagato anche poco, l'ho presa da Bricco 5 anni fa, credo. E te l'hai installata tu? Non ho capito. Tu te l'hai installata? Sì, cosa ci vuole? Non ci vuole mica l'ingegnere, sì. Ci sono quei entrata, uscita, poi per essere pignolo ho fatto anche tutti i manometri, quindi ho tre manometri, c'ho quello dell'acqua innanzitutto per la pressione dell'acqua, c'ho quello di coso lì del gas, pressione in uscita, e poi c'ho l'altro in ingresso, pressione erogata, diciamo, dai, così ti accorgi subito quanto ce n'è di gas. Vabbè, sei in campagna e a tutti i dini, il palazzo non è più installato, come lo sai, e succede qualche cosa a cazzo di arrestare, non lo puoi proprio fare, ci vuole la certificazione dell'installatore. Vabbè, in campagna di Naputi, non succede in USA. Sì, lo so. Ma io di norma cosa le faccio anche superiori a quelle che prevedono le normative, capito? Figurati che una volta dove abitavo prima, c'era la legge per cui dovevi togliere praticamente i cavi rigidi, no? Ti ricordi quelli in rama e proprio tosti, e mettere quelli flessibili per fare la tratta, la dorsale tra contattore, tutti disperati, tutti così. Le ho fatto tutto l'impianto, a tutto il condominio, erano tutti amici, se famiglia appena, compreso noi. È arrivata l'Enel, ha controllato, ha detto, ma chi l'ha fatto questo impianto? E uno l'ha fatto, no, sai, questo è l'unico impianto fatto bene che abbiamo visto in tutta la città, l'unico che veramente ha messo i cavi, eccetera, perché fanno una lavoro del genere anche costoso, e aveva messo tutti i cavi di tratta a norma e tutto quanto, già, anche se ancora non c'era l'obbligo. Gianfra, io sto uscendo, ci sentiamo dalla barra mobile. Va bene, Natali. non te ne andare a zonzo, eh? Sto andando a fare commissione, dai. Ci sentiamo più tardi. Bianco, Bianco per me, ci sentiamo? Perché c'è un cliente, ciao ciao. Ok Anto, anche per me che mi allontano un attimo. Ciao Anto e ciao Natalino, dai. Gianfra, mi ascolti? Attenzione, c'è qualcuno sul 10. CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione 10. Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto. Chi è avanti? Buongiorno, buongiorno Savi. Ciao Saverio, Natalino Alfa 1, Barrazzo Mobile. Già me ne accorgo che sei Barrazzo Mobile. Buongiorno Natalino. E allora Savi. Vogliamo a Pagazioni, da Manzano. Sono qua a Predanie, dammi, che sto andando a buscarmi portafusibili. Gappa. Ma non lo sai dove che stanno ancora venendo PLV lì qua a Sassari? Ordinateli da continente, anche io devo fare così. Marco lo stesso se li deve ordinare perché è un casino, qua non c'è. Uia uia. O ti danno quelli che non avvitano. Oppure quelli cinesi piccolini che vanno bene solo per il 58. Oh signor. Che apparecchio c'hai in macchina, Natalia? Ogni propagazione che c'è pure oggi, gappa, intanto adesso faccio la spazzolata come faccio una doccia e devo fare commissione. Antonio Roca, viene da Mauro. Vale. Non sai che fare con amici. Allora vamo a baracchine a tutti dopo. Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. CQ10, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10. Thank you. c'è qualcuno qua? Tutti scappati siete? Mala sorte, oh. Tutti scappati, non c'è nessuno. Assenteisti, come diceva un amico mio, carissimo. Attention, my friend. Hola, CQ10. CQ10. C'è qualcuno sul 10? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10. CQ canale 10. CQ10. Ebbene, sta. Oh, Jean-Marie, bonjour. Buongiorno. Ebbene, come va? Come va? Sto aspettando che mi deve chiamare mia moglie, che devo andare a pigliarla, che è andata a fare una commissione, capito? Io ce l'ho accompagnata, adesso aspetto la sua telefonata che devo andare a prenderla, capito? Stavo dicendo a proposito, a quanto costa quella scena che hai preso, quella che mi sta dicendo l'altro giorno? E sulle 150 costa, ma è bestiale, Jean-Marie, è molto silenziosa, senti tutti praticamente. E poi è molto larga di banda, quindi puoi fare anche ascolto con quell'antenna, capito? È leggerissima poi, vuole solo piazzata bene e basta. E non perché lo stavo guardando sul percuglio, perché il computer non funziona. E ho visto c'ha la carica come la stella, un bel grosso, così è sul basamento. E cavo rosso, sì, c'ha la carica molto grossa, c'ha. Perché praticamente è alimentato al centro, no? Logicamente c'è il PL sotto dove c'è la carica, capito? E qua è fatta veramente bene. Ce l'ha anche un amico mio radioamatore e ce l'ha tanti anni con l'antenna, ma è soddisfatto anche lui. Mi sembrava che era quella. È quella allora, infatti. No, la devo prendere, infatti. La devo prendere, adesso. Siccome no, il computer mio non mi funziona, lo stavo guardando il telefonino, però non c'era il prezzo sul telefonino e volevo sapere quanto costava, hai capito? Però me la prendo, perché questa che c'è è un quarto d'onda, no? E non mi soddisfa, hai capito? Me la butto in terra e compro quella lì, capito? Me la prendo, adesso la settima entrante me la compro. Jean-Marie, sì, costa quel tanto lì, costa. Guarda magari quando ti funziona bene il computer, così vedi magari e cerchi di pagarla il meno possibile, perché la vendono tanti posti. L'originale comprami quella con la carica rossa, 5 ottavi, perché c'è anche la mezz'onda, la 5 ottavi devi comprare. Infatti, no, voglio una 50, quella lì prendo la stessa. prezzo ho preso quella lì, capito? No, infatti non sapevo quanto costava e adesso lo so più o meno, ma adesso l'unica mia figlia che lì c'è il computer funzionante, così che me la faccio con... la faccio cercare e me la compro, capito? Perché lei c'ha la carta, per cui deve comprare lui la roba, lei sempre la roba, capito? Infatti, Gio Mari, infatti, e io e Franco l'abbiamo piazzata, lui già lo sa come vuole piazzata, capito? E a piazzata non è un problema, no, non è un problema piazzarla, capito? E cioè, per giù si piazza come quella che c'ho, da due strappe c'è e basta, capito? Al palo, già l'ho visto già. Ho visto lo schema, però non c'era il prezzo, capito? Ecco perché te l'ho detto, aveva un po' quanto costava. Perché prima magari quando avevo il computer a posto vedevo e c'era anche il prezzo, invece su telefonino non l'ho trovato il prezzo, perché non lo conosco bene ancora. Vabbè dai, mia moglie mi ha telefonato, devo uscire Gianmarì. E infatti è silenziosa, poi tu pensa con l'altra antenna sempre Santiago 7 ce l'avevo il QRM, qua è basso, silenziosa, sento quelli più bassi sento, e qua è deluso veramente. Ci sentiamo Gio Maria, devo scappare che mi ha telefonato la 50. Vai, d'accordo, no, volevo sapere quello quanto costava subito, tutto lì. D'accordo, ti sentiamo, dai, buon proseguimento. Breco. Breco. Hola, hola, hola, Breco, Breco. Mucho calor, mucho calor. Piti casa basca. Piti casa basquilleta. Breco, Breco. C'è il sudore. Oia, ma carità. Ante. Propagazione 100. Ma lo metto qua, se vede ancora un Kawasaki. Non ho capito, tanto. Il Kawasaki ce l'hai ancora? No, l'ho venduto, tanto. L'ho venduto ad un amico. Ah, aspetta, c'è un cliente. Eia, eia. Vediamo se c'è qualcuno dei nostri all'ascolto. Vediamo Alfa 1 se è acceso la radio, se ci sente. Marco sarà collassato sul divano. Oi, oi, oi. Sì, già. Tutti facendo la siesta. E mi sta passando le regole qua. Poco qua sono passate le macchine da regole. Sei passato? Sono passato le macchine da rally poco fa. Ah, trasferimento? Quando è che inizia, Anto? Non lo so. Da ieri è iniziato. 24 e 5. Ah, ok. Figurate quanto sei informato. Oh, yeah. Erbe Gino. che sfraccende. Intanto a brutto non è facile. No, no, appena. Ah, scarico aperto. Dai, io mi sposto, vado a mangiarmi un po' di insalata fresca, dai. Ci sentiamo dopo, Antio. Ehi, dai, ci sentiamo. Ahora que echaría una sola fila. ¿Estás con vosotros la cagada? Ya no hacer la culebra ya. Solamente Don Miguel queda haciendo la culebra. Don Miguel. C'è stato un bel, che sto dicendo, Roberto, io non trovo nessun orifizio per far entrare i fili, poi mi ha preso i cavi grossi. Manco male, adesso mi stai toccando il DB, mi stai toccando. Ah, vuoi passare a salutarmi? No, che sto facendo cosa, Antonio? Sto andando in banca, sto facendo delle operazioni. Ah, beh, non c'è problema. Adesso stai toccando proprio il DB, deve essere che sei qua vicino, sei. Cosa vicino? Lo sai dove sono? Dove sono? Dove c'è l'ultimo piano sono, là dove c'è il bar, quello del quadrato, come si chiama? Bah, adesso non mi viene il nome. Armata di nevaria, cazzo quando sta arrivando forte, chi è che vuole entrare? Un attimo, tu che mi sento secondo. Sì, Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza l'ascolto, brecco, brecco. Già. È ancora bassa la propagazione, dai. Bassa, sì. Già si dovrebbe aprire. Sicuramente sì. E adesso mi metto al centro del quadrato, vabbè, vediamo un po' come ti arrivo da qua. Adesso sono al centro, là, sono al centro del quadrato. C'è una palla, zio, cos'è? Dove vuoi andare? Anda bene, dai, e così mi rilascio un po' garito, che mi faceva male un bella gamba oggi, ui. Piano piano. E Antu, piano piano, ma quando devi fare la spesa, mi dia Eva, tutto canto, il peso lo prendi, capito? Lo so già. E purtroppo non è per fare a meno di mangiare. Ma ormai c'è l'ascensore, no guai. Lo so, io la metto davanti allo sportellino che entra dal cortile nel portone, la metto a retromarcia, la scarico da lì e poi vado. Aspetta. Fuori diciamo Natale, cosa può. Ah, sono scoperto il dono a pettare. Ma vai. E non esce di ta. C'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Tutti scappati? Ali, allo, ja is, gute, nö, ja. Sì, scusa che c'ho il QRM alto qua. Gianni De Prophet. In stasera sono profeta, buonasera. Aspetta che stavo centrando. Ok Gianni, adesso senti. A voglia. Ok. Sentimi, anche io ero acceso, ma ho visto che non c'era nessuno stasera. E io l'ho acceso adesso, 30 secondi fa. Ho fatto una spazzolata, ci sono tedeschi, cazzo, in tutte le direzioni. Sì, in FM molto, molto alti segnali, qua mi stanno arrivando Santiago 9, ma avevo lo squelch regolato alto, adesso ho sentito un fondo scala più vicino, e forse questo è qualcuno locale, e allora per quello che ho schiacciato il portante, ho detto vediamo se c'è qualcuno. Sì, sono anche in SSB, sono anche forti, poi c'è qualche anglofono, insomma. C'è un po' di casino, dai, la propaganda sta portando un sacco di roba. Sì, ho sentito, anche nei giorni scorsi c'erano francesi, belgi, ho sentito l'Olanda, insomma un sacco di roba. E anche qua sotto sono in FM i tedeschi, sullo 10, quindi c'è un po' di rumore di fondo. Infatti adesso ho messo lo squelch, tutto al massimo, capito? Quindi sento solo la tua voce, chi c'è sotto non lo sento. Già arrivano abbastanza forti, dai. Adesso in questi giorni c'è la propaganda dal nord, ma vediamo un po'. Io lo stesso in questi giorni, diciamo, ho avuto poco tempo da dedicare alla radio perché stavo facendo cose. Anche adesso sto cercando di rimontare un carrello di quelle zanzariere che si tirano e poi c'è il meccanismo che le fa risalire, no? Perché l'ho dovuto accorciare, ma è un casino, una molla, riavvitarla, devi beccare il senso giusto. Non ho visto com'era, l'ho smontata con la fretta, convinto di, e poi adesso scende e non sale, quindi ero alle prese con questa roba. Immagino, quando, è come quando smonti il meccanismo della messa in moto della motosega, se no se smonti tutto e non stai attento, ripiazzi tutto e succede un casino. Esatto, caricando la cordicella, se non avviti nel senso giusto, iaia, anche col tagliaerba. Va bene, ogni tanto ci stanno questi lavoretti, niente, e quindi ho visto che oggi c'era sì propagazione eccetera, ma non ho sentito nessuno, però forse all'orario, diciamo che magari è entrato qualcuno, io ero fuori, poi dopo c'erano acceso ed era acceso da allora con le, diciamo, su altre frequenze. Infatti anch'io prima ero in SSB e quindi avevo spostato con lo step un po' la frequenza ed era, non era sui 50, diciamo, dai, e quindi sentivo un po' male. Ho capito. No, vabbè, c'è un bel po' da brutto, che è molto corta, però non hai il tempo di magari collegare qualcuno che già sparisce, capito? Quindi è così. Vabbè. Niente, dai, io ho acceso così, forse per abitudine. ho fatto uno scroll di frequenza e niente, dai, non mi trattengo caldo, dai. Quindi saluto, buona serata, buonanotte e ci sentiamo nei prossimi, anche a tutti gli ascoltoni, che sicuramente ce ne sarà qualcuno, dai. Comunque, buonanotte a tutti e ci sentiamo. Ia, d'accordo, buonanotte, io continuo con le operazioni di caricamolla e poi non lo so, se ho un po' di tempo mi guardo un po' di TV e me ne andrò a letto intorno a mezzanotte. Ciao, alle prossime, speriamo in condizioni migliori, con meno baccano sulla frequenza. Via, dai, bene bene, la QRT per me, dai, ci riascoltiamo quanto prima. Buonanotte, tante cose belle, ciao ciao. Buonanotte, buonanotte.